Gesù, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ora là gli prepararono un pranzo, e Marta serviva, mentre Lazzaro era uno di quelli che sedevano a mensa con lui. Maria, presa una libra di profumo di nardo autentico, molto prezioso, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. La casa fu ripiena della fragranza di quel profumo. Dice Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo: «Perché non si è venduto il profumo per 300 danari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Lo disse però non perché gli stavano a cuore i poveri, ma perché era ladro e, avendo la borsa, sottraeva ciò che vi veniva messo dentro. Disse allora Gesù: «Lasciala, che lo doveva conservare per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, me invece non avete sempre». Una folla numerosa di giudei venne a sapere che si trovava lì, e vennero non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che aveva risuscitato dai morti. I sacerdoti capi decisero allora di uccidere anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Il giorno dopo, la grande folla giunta per la festa, sentito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese rami di palma e gli andò incontro gridando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele». Gesù, trovato un asinello, gli sedette in groppa, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d'asina». In un primo tempo i suoi discepoli non compresero questo fatto, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che questo era stato scritto di lui e che era proprio quello che gli avevano fatto. La gente che era stata con lui quando aveva chiamato Lazzaro dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti gli rendeva testimonianza. Per questo gli andò incontro la folla, perché avevano sentito che aveva fatto questo segno. I farisei allora si dissero fra loro: «Vedete che non combinate nulla? Ecco che il mondo gli è andato dietro». Tra quelli che erano saliti per adorare durante la festa c'erano alcuni greci. Essi abbordarono Filippo, quello di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo va a dirlo ad Andrea. Andrea e Filippo vanno a dirlo a Gesù. Gesù risponde loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità vi dico, se il grano di frumento caduto per terra non muore, resta esso solo, ma se muore, porta molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se qualcuno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora la mia anima è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono venuto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La gente che stava lì e aveva sentito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Rispose Gesù: «Non è per me che si è fatta sentire questa voce, ma per voi. Ora c'è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà cacciato fuori. E quando io sarò innalzato da terra, attrarrò tutti a me». Questo lo diceva per indicare di quale morte stava per morire. Gli rispose la gente: «Noi abbiamo sentito dalla legge che il Cristo rimane per sempre». «E come dici tu che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo?» Disse loro Gesù: «Solo ancora un po' di tempo la luce è in mezzo a voi. Camminate finché avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Finché avete la luce, credete alla luce, affinché diventiate figli della luce. Questo disse Gesù, e andatosene, si nascose da loro. Per quanto Gesù avesse compiuto così grandi segni davanti a loro, non credevano in lui, perché si adempisse la parola che aveva detto il profeta Isaia. Signore, chi credette alla nostra parola? Il braccio del Signore a chi fu rivelato? Per questo non potevano credere, perché Isaia disse anche: ha accecato i loro occhi e incallito il loro cuore, affinché con gli occhi non vedano e col cuore non comprendano, e così non si convertano, e io non li guarisca. Questo Isaia lo disse perché vide la sua gloria e parlò di lui. Pur tuttavia, anche fra i capi molti credettero in lui, ma non lo professavano pubblicamente a causa dei farisei, per non venire espulsi dalla sinagoga. Preferirono infatti la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Gesù proclamò ad alta voce: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato, e colui che vede me vede colui che mi ha mandato. Io, luce, sono venuto nel mondo affinché chi crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno. Non sono venuto infatti per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Colui che mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho pronunciato, quella lo giudicherà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso che mi ha mandato mi ha comandato ciò che dovevo dire e pronunciare, e so che il suo comandamento è vita eterna. Ciò che dico, lo dico come il Padre me l'ha detto.